Chissà cosa avrà pensato il Papa ieri pomeriggio nel trovarsi di fronte ai 5.000 e passa rappresentanti del mondo politico e parlamentare ansiosi di festeggiare alla sua augusta presenza il giubileo del politico. Avrà pensato probabilmente che non se ne poteva più e che anche se questo anno santo rappresentato a detta di tutti un grande successo, nonché il degno coronamento del suo pontificato, è una bella fortuna che stia volgendo alla fine e che di categorie socio-professionali da ricevere laudato Deo ne restino soltanto 3 o 4. Si sarà chiesto anche che cos'altro gli toccherà nelle prossime settimane, visto che per il giubileo degli sportivi è stato costretto a sorbirsi una noiosissima finta partita di calcio e per quello dei politici a presenziare, sia pure solo in parte, un'altrettanto noiosa e altrettanto finta assemblea parlamentare. La prossima volta toccherà, se non andiamo errati, alle forze di polizia e chissà se quel povero vecchio non sarà costretto a sorbirsi per motivi di protocollo un falso scontro a fuoco o un arresto simulato. Anche se in questo ultimo caso la Chiesa potrebbe, per amor di realismo, offrire per la parte dell'arrestato la partecipazione straordinaria del cardinale Giordano. Ma forse i suoi pensieri saranno stati su un tono più alto, su un tono più compiaciuto. Va riflettuto, da uomo di cultura qual è, sul fatto che quell'incontro in definitiva poneva fine, ancorché nessuno abbia sentito il bisogno di farlo notare, a una lunga, lunghissima disputa, e quella della Chiesa contro il sistema rappresentativo parlamentare. E che il bilancio tutto sommato non poteva considerarsi negativo per l'organizzazione alla cui testa lui si trova per mandato dello Spirito Santo. Un tempo la Chiesa, che in fondo è l'incarnazione storica del principio di gerarchia, disprezzava e temeva il parlamentarismo, che d'altronde era nato e si sviluppava in dichiarata antitesi ai suoi principi e ai suoi interessi. E i teorici dell'assolutismo clericale, nomi di cui non si parla più da un po', i Bossuet, i Lemestre, i Gemelli, hanno sempre deriso le teorie di chi voleva che l'autorità promanasse dal basso e risiedesse, in ultima analisi, in quel popolo che l'Episcopato ha sempre considerato un soggetto passivo di indottrinamento, incapace ad acquisire valori che non gli fossero proposti da un'autorità debitamente accreditata. Ancora ai tempi di Pio XI, che non ha regnato nel Medioevo, ma 70 anni fa, non sono mancati teorici che per giustificare la firma di un concordato con Mussolini spiegavano con tono di sufficienza come la Chiesa non potesse non preferire per sua natura di stipulare i suoi accordi con quei governi che non avessero il bisogno di affrontare i rischi di una ratifica parlamentare. Oggi quella polemica non ha più ragione di essere. I rappresentanti del popolo si affollano al bacio della divina pantofola e non mostrano in alcun modo di avere una qualsiasi considerazione dell'autonomia del loro ruolo e dell'impegno che laicamente dovrebbe legarli ai propri elettori. Sono lì, ansiosi come cagnolini quando il padrone distribuisce i biscotti, tutti intenti a concentrare quante più banalità possono nei 3 minuti concessi dal protocollo e assorbirsi in cambio le solite prediche sui diritti umani, che sono una gran bella cosa ma non vanno intesi in senso individualistico, e chissà in che senso allora, visto che gli individui ne sono i soggetti tutto sommato, e a prendere buona nota della raccomandazione in cui vi si esorta a vietare a tutti per legge quei comportamenti che la Chiesa, in base ai propri principi, considera disdicevoli, e sia che parlino a nome del comitato d'accoglienza come Andreotti, o del comitato dell'anno santo come Rutelli, dell'internazionale democristiana come Casini, o dell'internazionale socialista come Veltroni, non sentono in nessun modo il bisogno di distinguere l'autorevolezza, che è sempre opportuno riconoscere a un pontefice, dall'autorità che costui concretamente rivendica al di fuori di quelle garanzie democratiche alla cui difesa dovrebbero essere istituzionalmente tenuti. Partecipano a una finzione, perché è ovvio che quella loro assemblea non può far altro che simulare la logica delle assisi parlamentari, ma lo fanno con tanto convincimento da giustificare la perplessità di chi si chiede se anche nei rispettivi parlamenti il dibattito sia tanto predefinito e le conclusioni tanto scontate. Di un parlamentarismo del genere, che non può rappresentare altro che se stesso, non c'è autorità che debba o possa avere paura. Perché se il parlamentarismo non serve a limitare i poteri dell'autorità in nome della rappresentanza, a cosa credete che possa servire, scusate?